Lei con gli Scantos ha mai usato Ennio Morricone come introduzione ai suoi concerti? Decine di volte, però usando brani minori. Non nell'estasi dell'oro. No, abbiamo voluto essere più sofisticati. E invece una delle tre band ipotizzate lo ha utilizzato prima dei Metallica, forse i Ramones? Glielo dico dopo. Forse i Deep Purple? No. Forse i Rolling Stone? No. E allora era la soluzione esatta, la numero uno. Le piace la tensione a lei? Sì, mi piace il suspense. Non mi volevo giocare subito l'asso, ma in effetti era l'ipotesi A, quella giusta, i Ramones. Metallica, vi abbiamo tanato. Prima c'erano i Ramones. Esatto, i Fast Four sono arrivati prima di voi. Del resto il loro soprannome li giustifica, sono arrivati prima di tutti. Vai con i Ramones. Faccio il chitarrista rock con la bocca, eh. Anche il batterista. Ta ta ta ta ta. The moon is full, the air is still. All of a sudden I feel a chill. Victory is green and flesh is running away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be there. Pet Sematary Ramones. Ricordo sempre che su punkrockers.it, il sito della mia etichetta di autoproduzione, non lo dico mai Spadino, fammi fare un po' di autopromozione, scaricate l'ultimo lavoro della mia band, dove tra le altre c'è anche Pet Sematary. Devo programmarla dei pay, me la dimentico sempre a casa come un babano. Benvenuti anche a voi dall'ultima mezz'ora, fortunelli, vi siete svegliati dopo. Vi vogliamo bene lo stesso, questa è Pane, Burro e Rock and Roll. I Ramones erano citati nel nostro test attitudinale, ma in realtà era citato anche Morricone. Ringrazio Spadino che con un super aiuto tecnologico mi ha rintracciato l'estasi dell'oro. Ce la gustiamo così, a inizio dell'ultima mezz'ora? Ma sì, dai. Ehi, cowboy, anche quest'oggi sarà una dura giornata di lavoro. Ma ce la faremo, anche in questo 20 di febbraio 2008, l'anno della svolta. Quasi. Non so se dirvi di smettere di scrivere del chinotto oppure no. Ne parleremo comunque, vi lascio con Morricone. fossero i Metallica, manco fossero i Ramones. Un ingresso trionfale per uno dei nostri inviati speciali in giro per Milano. Il titolo della rubrica potrebbe essere La settimana della moda milanese vissuta dal nostro tassista. Ciao Tino! Ciao a tutti, ma come siete gentili! Che ingresso! Ingresso alla Morricone quest'oggi, roba veramente da signori. Mi vengono i peli dritti dalle braccia. Allora, abbiamo iniziato questa rubrica lunedì, ricordiamo che siamo in piena settimana della moda, giusto? Esatto, giusto. Ricordiamo che noi di Pane, Burro e Rock and Roll non potevamo non trattare questo argomento così di scottante attualità come la moda. Ma certo! E non potevamo non trattarlo alla maniera nostra. Un po' così, come non fa nessun altro. Esatto, ma come nessun altro ci potrebbe neanche riuscire. Esatto. Tino forse sarà un esperto di moda? No. Ma sicuramente, facendo il tassista, sa dove sono le modelle. Carta e penna, amici ed amiche milanesi là fuori, gli appuntamenti di oggi. Vai. Esatto, siete pronti? Sì, io ho la carta e anche la penna. Esatto, se no guarda che la Carla fa rabbia dopo. No, lascia stare, va. Allora, vi suggerisco quattro appuntamenti in fila, sì, concentrati fra l'ora di pranzo e il primo pomeriggio, così viene via bene. Allora, perdonami, tu proponi degli appostamenti? Certo, io propongo l'appostamento fuori dai luoghi dove si fanno le sfilate. Una volta si proponzionava tanto il bird watching. Esatto, allora facciamo il modella watching, il model watching. Va bene, vai, dici dove. Allora, ve le dico in fila. Dunque, le sfilate sono Cavalli, Trussardi, Iceberg, Crizia e Gucci. Ok. Ecco, e si svolgono in Fiera Porta Gattamelata, Piazza Luigi di Savoia, Via Palermo, Via Banin e Piazza Oberman. Se le saranno segnate? Spero di sì. Se vuoi lo ripeto. Velocemente le vie? Allora, Fiera di Milano, Porta Gattamelata. Sì. Piazza Luigi di Savoia, sì, c'è la stazione centrale, sì, Via Palermo, Via Manin, sì, e Piazza Oberdan. Questo in che orari pranzo hai detto? Allora, dalle 13 alle 17, tutto in fila. Ok, abbiamo da fare anche quest'oggi, Tino, grazie mille. Ecco, poi volevo segnalare anche di buttare l'occhio alle Lancia Musa, colore grigio scuro, che hanno gli adesivi sulle portiere perché sono quelle del trasporto modelle. No, allora non le trasportate voi, Tino? Qualche volta sì, ma diciamo che la massa al trasporto dedicato. Diciamo. Com'è una Lancia Delta grigia? No, Delta, sì. Degli anni 70, no, una Lancia Musa. Una Lancia Musa, grigia. Esatto, grigio scuro. Ci sono, sì, sulle signorine carine. Esatto, esatto. Bene, molto interessante. Tino, ti lascio al tuo lavoro perché hai clienti oggi, su. Sì, sì, esatto. Come al solito l'hai avvisato che dovevi fare. Certo. Gli hai detto, scusi, devo fare la mia rubrica di model watching. Devo fare la diretta con Pane, Burro, Rock and Roll e immediatamente si sono aperte le porte. Ciao Tino, buona giornata. Buona giornata a voi, ciao a tutti. Maestro Frick, c'è da farsi venire il mal di testa a pensare quanti dialetti ci sono nel nostro bel paese. Il che costituisce una ricchezza impagabile. Che noi di Pane, Burro e Rock'n'Roll non ci facciamo scappare. E certo è che dovessimo trovarci sulle vette delle Dolomiti, io e lei, staremmo in una botte di ferro. Esatto. Perché sapremmo come comportarci. Prussia! Bene, Zimi, avete imparato bene il saluto classico. Dolomitico, il saluto dolomitico. L'uomo, l'uomo dolomitico ci piace. Diretto, essenziale. Torniamo a occuparci del dolomitico con il nostro professionista Prussia, direttamente Prussia, dalle tre cime di Lavaredo. Esatto. La prima, la seconda e la terza. Esatto. Quest'oggi cosa... una battuta simpatica. L'è venuta carina, tra l'altro. Che cosa ci sottopone quest'oggi? Ma è un periodo un po' strano per la politica, allora ho cercato di racchiudere il tutto all'interno del solito luogo comune di montagna dove si discute un po' di tutto. È vero. Il bar. Il bar. Ah, bravissimo. Il bar. Il rifugio montanaro, che immagine meravigliosa. Che si dice di questi giorni? La volete prima in dialetto o prima in italiano? Prima in dialetto sempre. A sto sentiu, e tomò il governo e tu ci attornà a votà. Dagnò, proprio vero che chi l'hanno a voi ave fei nuia, e vuol solo sapere le sue scarpette. Questa era meravigliosa. Bello. Non vedo l'ora di scendere giù al bar sotto la radio e dirla così. Bello, bello, bello, bello. Allora, suggestivo. Il senso l'avevo capito. Hai visto quelli lì che fanno quella roba lì e pensano solo alle loro scarpette? Ah, ecco. Sì, non mi era chiaro il significato finale, della parte finale. Se lo vuole tradurre precisa? Hai sentito, è caduto il governo e bisogna tornare al voto. Sì. Nuovo. È proprio vero che non hanno voglia di far nulla e gli importa solo dei loro interessi. La saggezza popolare, Frick, ce la ridica il dolomitico, la prego. Asto sentiu. Asto sentiu. E tomò il governo. E tomò il governo. E tomò il governo. Le berlaggiò, tomò. E tomò il governo e Tuccia tornà a votare. E Tuccia tornà a votare. Che sarebbe Tuccia, ci tocca. Tuccia, bellissimo. Tuccia con la O quasi. Tuccia. Montanaro. Tuccia tornà a votare. Ecco, interpretatevi proprio in questo rifugio con una grappa in mano. Certo, io ce l'ho già qui, sì. Guarda, sono già pronto. E la risposta è Dagnò. Dagnò. Dagnò. Dagnò. Dagnò. Sto provando. Dagnò. Dagnò. Più lunga la O. Dagnò. I rimi bisogna essere più maestro. Prussia, Dagnò. Dagnò. Perfetto. Oh. È proprio vero che chi l'ha non ha voglia di fei nuia. È proprio vero che chi l'ha... A voi a defai nulla.

burro e rock and roll. Pane, burro e rock and roll. La colazione di Rock FM. La tua colazione rock. Beh, loro se la fanno a casa, noi ce la facciamo qui nei nostri studi. Esatto, Spadino, un po' di hai comodità. Chiamato Walt, il mitico Walt, il barista che troviamo qua sotto le sotto gli studi di Rock FM. Cosa ha preso? Freak, lei? Ma io stamattina avrei preso un cappuccio caldo e un chinotto. Ma perché dovrebbe arrivare strano. Proprio in questo. Anzi, Spadino mi dice: ma sì, fallo entrare, tanto entra Peretti, entra chiunque in questi studi radiofonici. Buongiorno, ma che suoni? Ravi Shankar! Salve! Il nostro! Buongiorno! Buongiorno! Scusi, lei cosa fa? Buongiorno! Buongiorno! Di chi si tratta? Scusi lei. Yes, sir! Buongiorno. Sono Rudy! Rudy, ristorante Ravi Shankar! Buongiorno, signor Rudy! Buongiorno! Guardi, non so come mai è venuto a trovarci, ascolta la trasmissione, forse. Colazione per radio! La colazione... No, ma noi avremmo... Noi abbiamo chiesto il cappuccio giù da Walt. Naturalmente. Sì. Yes sir, cappuccio. Sono due cappucci e due brioche, se non ricordo. Due cappucci e due brioche. Sono questi che ci ha portato. Guarda che belli fra... Ma non è un cappuccio questo. Questo non è un cappuccino, signor. No, non sembra. No, è cappuccio. No, non è un cappuccio. No, ma noi serviva un cappuccino. Due cappucci e due brioche. Due cappucci e due brioche. Ah, esatto, ecco. Questi non sono due cappucci e due brioche, mi scusi. Non sono due cappucci e due brioche. Scusi, mi sta pigliando per il culo. Signor Rundi, cos'è questa roba? Oh, questa... Ti piace? Curry? Curry, guardi, potrebbe anche piacere. A quest'ora della giornata preferirei due cappucce e due brioche. Due cappucce e due brioche? Ma questi non sono due cappucce e due brioche. Ma eppure a noi servivano due cappucce e due brioche. Due cappucci, due brioche. Questa colazione Ravi Shankar. Sì, guardi, Ravi Shankar puzza di curry questa roba. Io la sento, la riconosco, freak. Ma sì, in effetti questa spezia è troppo forte. Curry. Questo è il curry più fresco di Milano. Ma come? No, ho capito, potrei anche essere il curry più fresco di Milano. Ma come gli fai? Noi servivano due cappucci e due brioche da Walt, qua sotto. Lei esatto. Arriva da Walt? Arriva da Walt, yes sir. Arriva dal... Quindi Walt bar... è chiuso in pratica. Walt è chiuso? Ma no, Walt l'ho visto, sono passato io stamattina, era ancora aperto il bar di Walt. Walt aperto? Walt sì, è aperto. Yes sir. Ah, ho capito. È un tipico indiano che per non scontentarci dice di sì a entrambi. Lei dice sempre che è così? Comunque. Ravi Shankar! Ravi Shankar! Vabbè. Questi cosa sono? È la colazione che ci ha portato. Colazione Ravi Shankar! Riso al curry. Sì, riso al curry. Riso al curry, spero non ma sia. Ma noi volevamo cappuccino. Yes, cappuccino. Yes, cappuccino. Yes, ah, yes, cappuccino. Ma è piccante o almeno. Perché a me non piace il piccante. No, piccante, io invece, no piccante. Io invece gradirei un filo di piccante. Questo piccante. Yes, sir. Questo è piccante? Questo è piccante. E questo? No, piccante. Allora, ma sembra piccante come l'altro. Questo sì. Ma è tu piccante. Non assaggiarlo, perché guarda che fa male a questo ragazzo. No, dice che ha il curry più fresco. Io ma come fa a bere il curry? Non lo mangio. Ma guarda. Come fa a bere il curry? Questo è il più buono curry di Milano. Ma come fa a sapere, tra l'altro, che questo è il curry più buono, più fresco di Milano? Tutte mattine arriva con Corriere. Cazzo ride? Cosa c'è da ridere? Freak. Freak, no, cazzo è ho capito la battuta, era non è battuta. Che voglio essere complice, però Corriere. Divertente. Lo parla indostano? No, valdostano, un filo di valdostano. Io parlo italiano, giusto, giusto per non farmi capire. Va bene, signor Rundi, grazie mille, comunque avrei preferito cappuccino e brioche. Ravi Shankar! Arrivederci, questo te lo mangi tu, io volevo due cappuccini e due brioche, sta roba io non la mangio. Pare burro, mazza che figata sto programma, raga! A little kiss. young ladies in a school gym locker when I noticed they was looking at me. I was a high school loser, now I made it with the ladies and bones, told myself I'm a mess. Then my next door neighbor with a daughter had a favor, so I gave her just a little kiss like this. Che è andata anche oggi, 9:02, Walk This Way, Aerosmith. Gli appuntamenti del weekend, se vi va, venerdì mi trovate al garage di Sesto San Giovanni, selezionerò un po' di buon rock and roll, subito dopo il concerto dell'Invasione degli Omini Verdi, un po' di punk italiano, mentre sabato mi trovate con Max De Riu alla Flog, all'Auditorium Flog di Firenze, Collina del Poggetto, dopo il concerto di Alec Empire, che tra l'altro ti sciacqui anche la bocca. È andata, questa è la fine e questa è la nostra sigla. Archiviamo la puntata 187, la troverete su radiorockfm.com tra qualche minuto nella sezione streaming. Pane, burro e rock and roll. Oppure la troverete in podcast, sempre da lì. La tua colazione rock. O ancora sul nostro spazio. Pane, burro e rock and roll. myspace.com/paneburrofm, dove chiacchieriamo anche. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. È un piacere donare, anzi dare in prestito il microfono di Rock FM a Marco Garavelli, che poi a sua volta lo darà in prestito a Mox Cristadoro. Esatto, era un po' che non ci ritrovavamo in questa situazione. Devo ringraziare ufficialmente Marco Garavelli perché siamo riusciti a convincerlo e abbiamo costruito la puntata numero 3 di Zorrock. Grazie Marco. E non se ne parli più, eh? Tre, finiamo a 3, numero perfetto. Pietra sopra. 3 puntate di Zorrock, poi basta. È la sua morte. Era per avvisarli che la programmeremo molto probabilmente domani. Perché, ah, già domani? Sì, perché giovedì abbiamo i Beatles in italiano. Non la tieni per la festa delle donne? L'8 marzo? No, magari ne facciamo un'altra. No, non lo so, no? Proprio, guarda. Finiamo alla terza. Esatto. Va bene, grazie per essere stati con il taglio così. Vi lascio in compagnia di Marco Garavelli, a domani. Ciao, grazie.